Summertime di Elisabetta Fiorito. Buon pomeriggio, bentornati a Summertime. Questa sera noi andiamo subito a Torre del Lago, sì, la mitica località dove nacque Giacomo Puccini, perché proprio durante il festival organizzata dalla Fondazione Festival Pucciniano, stasera si ricevono gli Oscar della Lirica 2012 e noi abbiamo qui a Summertime Dimitra Teodosiu, giusto? Come ho pronunciato? Giustissimo, giustissimo. Che riceverà l'Oscar per il miglior soprano. Allora, Dimitra, intanto stare a Torre del Lago con queste atmosfere pucciniane e poi per quale aria o per quale opera interpretata da lei riceverà questo premio? Penso, va bene, prima di tutto un grandissimo onore che proprio hanno scelto me e che sono la vincitrice, combattendo proprio con altre due grandissimi soprani, no? I cui nomi non vogliamo rivelare. È la Mariella De Via e Nathalie Deffès. Quindi lei perché ha vinto, visto che c'era questa triade? Ah, questo non lo so, però addirittura quando ho sentito che combatto con la Mariella De Via, naturalmente no, mi ha preso un timore, diciamo, no, perché lei è una grandissima cantante, molto importante, anche italiana, quindi io l'avevo quasi come perso, non è che... e quindi è stata una grandissima sorpresa aver preso io questo premio. Adesso per quale opera, questo non lo so, penso per tutta la mia carriera. Ma lei si è sentita un po' come Maria Callas che lotta contro la Tebaldi? Sì, infatti, è così. Allora, dunque, parliamo invece di questo che è il Festival Pucciniano, lei come soprano, no? Avrà interpretato molte opere, qual è la sua preferita del panorama ovviamente pucciniano? Ho interpretato, diciamo, 46 titoli proprio del repertorio, sì, lirico. Sicuramente i titoli che sono le battaglie proprio sono Norma, Roberto De Verè, Anna Bolena, Macbeth, Attila, Nabucco. Un'opera che l'ha cantata tantissimo, circa 150 volte è stata La Traviata, quando ero più giovane, diciamola così. E invece sì, proprio di Puccini? La Medea. Di Puccini ho fatto pochissimo, ho fatto La Bohème, ho fatto La Liu nella Turandot, e ho fatto Gianni Schicchi, ma quando ero proprio, era la mia terza opera che ho cantato in mia vita. Sì, è una direzione che non mi ha portato la mia carriera. Sì, Allora, dunque, lei ha detto l'opera che ho interpretato maggiormente è stata La Traviata, giusto? Sì, Traviata e Norma. Traviata e Norma. Qual è l'aria che lei a un certo punto, oramai l'ha interpretata talmente tante volte, oramai la conosce talmente tanto bene, quando va sul palcoscenico, che sente proprio sua? Sicuramente una delle aree sono quella che interpreterò stasera, La luce langue della Lady Macbeth, dell'opera Macbeth di Verdi. E c'è la Casta Diva, naturalmente, che ho interpretato, non lo so, anche lì siamo 120-130 volte. Qual è quella che ama di più? Non c'è una che amo di più, perché sono proprio creazioni, no? In quel momento lì, che se non mi piacevano non li interpretavo. Capito. Noi le vorremmo chiedere di accennarci Casta Diva, però so che voi soprani siete un po' difficili fuori dalle prove. Ci sentirete, no? Fra poco. L'appuntamento poco, allora, è che se bisogna sentire Dimitra Teodosiu, bisogna andare a Torre del Lago questa sera perché lei è stata scelta quest'anno come Oscar della Lirica 2012 come miglior soprano. Quindi ogni cantante, a seconda della propria tonalità, viene premiato e guest star della serata sarà anche Andrea Bocelli, ma ricordiamo che Dimitra Teodosiu ce l'ha fatta contro altri due soprani, poi abbiamo Sonia Ganassi che sarà il mezzo soprano, no? E premiato, insomma, ci sono veramente moltissimi cantanti lirici da ascoltare in questa splendida cornice. Grazie Dimitra. Grazie a voi. Ultimi giorni, no? Sembrano i saldi, ultimi giorni di Lunatica, il festival di Massa Carrara che è in scena dal 22 luglio fino al 3 agosto e ha portato veramente 26 spettacoli di altissimo livello. Insomma, chiediamo subito alla direttrice artistica Marina Babboni com'è andata, come sta andando. Sta andando, devo dire, straordinariamente e insieme faticosamente molto bene. Straordinariamente bene perché la risposta agli spettacoli è qualitativamente molto alta, perché mi sembra che le scelte abbiano individuato spettacoli che non si vedono abitualmente, spettacoli che quindi richiamano un pubblico specifico, un pubblico che vuole conoscere il meglio oggi della drammaturgia contemporanea, della danza, dello spettacolo in generale, e nello stesso tempo conosce attraverso gli spettacoli dei luoghi inusitati, faticosamente, perché questi luoghi sono disseminati su tutto il territorio della provincia di Massa Carrara, e che è composta da una zona costiera ma anche da un'entroterra che è la Lunigiana, particolarmente suggestivo ma anche particolarmente difficile da raggiungere in qualche maniera, e il festival ha proprio questo compito di condurre in un viaggio che è un viaggio culturale ma anche un viaggio nella natura, nella cultura, nella praticamente la stratificazione del tempo. Andiamo in borghi, castelli, vallate che sono rimaste con una forte impronta in tutti questi anni, e il pubblico faticosamente raggiunge questi luoghi e conosce spettacoli e vede posti che non avrebbe visto, quindi la soddisfazione è grande. La fatica organizzativa è enorme, forse anche un po' di fatica del pubblico di seguirci, anche se lo aiutiamo con i bus lunatici, se lo aiutiamo assistendoli molto vicino nel loro viaggio, però è anche una scoperta, e in fondo un festival deve servire a scoprire. Cittadini, un tempo noi vi soffocavamo, ma di tanto in tanto vi facevamo riprendere aria, da adesso vi strozzeremo e basta, punto. Eppure, cari cittadini, noi che stiamo al governo abbiamo la responsabilità, il dovere di ascoltarvi. Noi ascoltiamo gli operai ci dicono che le loro aziende chiudono, delocalizzano in Cina e loro perdono il lavoro, oppure restano in Italia, però si cinesizzano e loro perdono i diritti. E noi a questi operai dobbiamo dire una cosa semplice, chiara, onesta, e gliela diremo. Diremo: operai, cazzi vostri, sinceramente, onestamente. E questa sera, proprio al Lunatica Festival, c'è Ascanio Celestini con i discorsi alla nazione. Ascanio, io mi sono già spaventata, perché ogni volta che qualcuno fa un discorso alla nazione, prendono la parola il Presidente del Consiglio in corso a Montecitorio o a Palazzo Madama, sono sempre brutte notizie. Questi discorsi alla nazione che ho cominciato a portare in giro come studio, e non saprò bene quando diventerà uno spettacolo definitivo, in qualche maniera sono per certi versi simili ai discorsi dei nostri precedenti, ma in un certo senso anche molto diversi. Io ho immaginato una serie di aspiranti dittatori, aspiranti tiranni, che parlano al popolo, parlano alla nazione, però dicono quello che direbbero i nostri tiranni se dicessero veramente quello che pensano. Perciò terrorizzano proprio perché non usano mezzi termini. Cioè anche i nostri governanti mettono paura quando parlano, però molto spesso rimaniamo, siamo più impauriti da quello che non ci dicono piuttosto che da quello che ci fanno sapere. Invece i tuoi tiranni ci dicono tutto proprio? Sì, ma soprattutto parlano in maniera molto diretta, dicono quello che pensano del popolo, e perciò trattano in maniera molto, molto, molto immediata, diretta, il popolo come una massa di sudditi e in qualche maniera non si fanno scrupoli, non cercano di compiacere il popolo, ma lo trattano direttamente come se non esistesse o non fosse mai esistita la democrazia. Quindi ci puoi fare un esempio, tanto per capire come potrebbe essere la tonalità? Sperando che poi i nostri politici non ne prendano, non ti prendano da esempio. Beh, una volta Berlusconi invece disse l'italiano medio è un po' come un bambino della seconda media e neanche uno di quelli che siete nei primi banchi, per cui certe volte hanno parlato in maniera molto diretta, insomma, per niente mascherata. Questi aspiranti dittatori, per esempio, uno dei discorsi inizia dicendo cari cittadini, scusate se vi chiamo in questa maniera, so perfettamente che siete dei sudditi, però per quale motivo umiliarvi inutilmente, perciò vi chiamerò cittadini e cittadine. Senti, ma hai intenzione magari di metterci anche dei dittatori tecnocratici? Ma sì, ma infatti io quando parlo di questi aspiranti tiranni non penso a Hitler o Mussolini, penso più che altro a quelli che in maniera ormai molto poco novecentesca, però pensano che occuparsi di politica sia più o meno come occuparsi di una grande azienda e quindi aspirano ad avere il controllo di un'azienda sempre più grande e sempre più potente. La politica comunque è sempre la tua fonte di ispirazione? Ma più che la politica, che sarebbe una grande cosa, più che la politica è proprio la gestione del privilegio, del potere. Politica sta a polis come cittadino a città, perciò più ci si allontana da quella dimensione politica della polis e più si finisce in una maniera o nell'altra in una più o meno mascherata tirannia. Allora, abbiamo sentito Ascanio Celestini che, come al solito, è una voce della coscienza italiana, possiamo dirti così, no? Con i tuoi spettacoli cerchi sempre di illustrarci quello che c'è un po' dietro le quinte. Abbiamo sentito quindi questi discorsi alla nazione che per una volta vengono fatti da Ascanio Celestini, quindi ancora non dal Presidente del Consiglio in carica, non stiamo parlando specificamente di Monti, ma insomma per dire, e che verranno fatti invece a Lunati Festival. Ringraziamo anche la direttrice artistica Marina Babboni e vi raccomandiamo di andare a Massa Carrara perché sono veramente gli ultimi giorni di questa parata di stelle sotto i cieli stellati. Grazie. Grazie a voi. E noi andiamo a Ravello, sì, questo mega festival come al solito che ci accoglie e ci accompagna per tutta l'estate perché inizia il 23 giugno, finisce il 1 settembre e ospita veramente di tutto e di più. E il direttore artistico Stefano Valanzuolo è con noi oggi per presentare la serata di questa sera che è abbastanza importante perché ospitate l'Orchestra Giovanile di Palestina. Buongiorno. Buongiorno a voi. Sì, eccoci, è vero, ospitiamo l'Orchestra Giovanile di Palestina che è in Italia per una serie piccola ma significativa di concerti. È chiaramente un evento che al di là del significato puramente musicale, comunque non sottovalutabile perché si tratta di un'orchestra che suona molto bene, insomma. Al di là di questo diciamo ha un significato importante perché sottolinea la volontà di questo gruppo di emergere da una situazione comunque complicata attraverso la musica, attraverso l'arte. È un po' quello che succede in altri casi, che so, con l'orchestra del sistema venezuelano, ecco, diciamo che in piccolo questi rappresentano comunque una sfida alle avversità portata attraverso la musica. Ecco, sono 75 giovani talenti, no? Che vengono appunto dalla Palestina e che sponsorizzati dalla Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO suonano però, questo è sorprendente, non è che suonano musica araba eccetera, suonano invece proprio musica classica, perché io leggo il programma Ludwig van Beethoven, poi abbiamo Rimsky-Korsakov, insomma il programma è denso ed è molto classico. Sì, assolutamente, loro sono 75, esatto, tra i 14 e i 26 anni, 75 musicisti tra i 14 e i 26 anni che vengono da tutte le parti del mondo, sono palestinesi che vivono sparsi in ogni parte del mondo e che tornano in occasione di questi corsi estivi per dar vita a questo grande progetto che è rappresentato appunto dall'orchestra. Affrontano un repertorio che non ha confini, non ha limiti né geografici né culturali, ma naturalmente, come poi si potrà vedere, nella locandina ci sono anche pezzi invece che per noi occidentali sono, possono essere abbastanza strani, certamente sono inediti, e che invece rappresentano il versante fieramente, come dire, tradizionalista e autoctono della loro cultura. Quindi musica classica e musica classica occidentale e musica invece orientale, che può rappresentare una novità molto interessante. Ecco, io qui leggo di un violino arabo, Mayas al-Yamani. Che cosa vuol dire? Sì, il violino arabo è uno strumento che può ricordare nelle fattezze, anche nel tipo di sonorità, il nostro violino, ma chiaramente se ne differenzia per vari, proprio in termini di timbrici, e quindi per questo violino arabo non hanno scritto, diciamo, compositori occidentali, ma invece hanno scritto compositori orientali, come in questo caso Mayas al-Yamani, ed è chiaro che questa rappresenta un'occasione quasi unica di sentire pezzi di questo tipo. Va sottolineato comunque che i musicisti in questione, i solisti in questione, sono solisti molto attivi sulla scena internazionale e non soltanto limitatamente a quel repertorio e a quel tipo di strumento, ecco, perché sì. Per esempio il soprano che avremo ospite stasera è stata parte importante del bellissimo flauto magico di Peter Brook, per intenderci, quindi diciamo stiamo parlando di musicisti che hanno una carriera internazionale molto forte, ma che non dimenticano le radici. Quindi sì, come dicevo appunto, repertorio classico con poi qualche sfumatura, no? Anche di musica araba. Abbiamo però, quello che mi ha colpito è che questa orchestra giovanile di Palestina, di 75 musicisti, lo ricordiamo, di età compresa dai 14 ai 26 anni, è diretta da una donna, Sian Edwards. Sì, e questo dalla misura, secondo me, anche della grande apertura di questo tipo di progetto, di questo tipo di orchestra, perché noi magari siamo abituati a pensare a queste orchestre arabe, diciamo palestinese in questo caso, come dei gruppi molto ristretti, ancora poco aperti magari alla novità, invece ci sorprendono addirittura con questa presenza di Sian Edwards, che tra l'altro è una direttrice d'orchestra, forse dovrebbe dire un direttore senza nemmeno declinarlo, ma comunque una direttrice d'orchestra che ha anche trascorsi importanti con orchestre inglesi, con orchestre americane, con orchestre russe, quindi diciamo è una professionista a tutto tondo, che ha scelto per 2 anni di fare da tutor, diciamo così, da direttore d'orchestra di questo gruppo. Quindi un motivo, credo, di interesse, di curiosità e di attrattiva in più. Ringraziamo allora Stefano Valanzuolo, direttore artistico del Ravello Festival, questa kermesse che ci accompagna per tutta l'estate, e ricordiamo l'appuntamento di questa sera, l'Orchestra Giovanile di Palestina sul palco del Ravello Festival. Grazie. Grazie a voi, arrivederci. C'era mio il re, noi siamo i giovani. Andiamo adesso a Susa, in Piemonte, dove nell'ambito di Canto d'Estate, una rassegna che propone anche spettacoli all'Anfiteatro Romano e al Castello fino al 12 settembre, questa sera c'è cioè una serata evento, perché proprio apre la rassegna, che si intitola Europa Cantat. Buon pomeriggio ad Enzo Sicco, che è il direttore artistico. Allora, cosa succede questa sera? Bene, come lei ha ricordato, questa sera c'è una partenza di una nuova iniziativa, che è questo Canto d'Estate, che riempirà 2 spazi, diciamo, culturali, storici, turistici della città di Susa, l'Anfiteatro Romano e il Castello, con diversi appuntamenti, e l'apertura è dedicata a un grande concerto di Europa Cantat, che è questo festival internazionale giunto alla sua 18ª edizione, che per la prima volta è arrivato in Italia, a Torino, che però prevede anche la presenza di questi cori da tutta Europa e da tutto il mondo, anche in decentramento, quindi con l'organizzazione di Europa Cantat questa sera riusciamo a portare un coro brasiliano, un coro italiano ed un coro piemontese nel grande scenario dell'Anfiteatro Romano. Poi voi proseguite e ci sono varie serate, no? O al Cortile al Castello, Viaggio tra le mura, insomma, che cosa fate? Degli spettacoli teatrali, degli incontri con attori? Sì, proseguiamo con due appuntamenti teatrali. Uno è un nostro, diciamo, antico successo che continua ad avere una grande richiesta da parte del pubblico, è un classico della letteratura di Luis Sepúlveda, La gabbianella e il gatto, e quindi uno spettacolo per famiglie, per ragazzi, per tutti quelli che amano ovviamente anche le tematiche ecologiche e che per chi osa volare, come dice il racconto stesso. L'altro appuntamento teatrale il 18 di agosto è con invece una novità, uno spettacolo che ha appena debuttato e il Jack Frusciante è uscito dal gruppo, quindi siamo sempre in materia di realizzazione teatrale di un testo letterario. Jack Frusciante di Enrico Brizzi è un classico per la letteratura rivolta alla fascia degli adolescenti e forse il romanzo che meglio ci fa comprendere ancora oggi che cosa vuol dire essere giovani nella nostra società, ed è un ovviamente uno spettacolo che si avvale come il libro anche di una forte colonna musicale di riferimento. Siamo negli anni alla fine degli anni 80, inizio anni 90, quindi in grande fase punk e post-punk. Ultimo grande appuntamento il 12 settembre, un omaggio a Davide Laiolo, di cui ricorre il centenario della nascita, e al suo Vizi Assurdo, cioè il libro che ci ha insegnato a conoscere maggiormente uno degli autori italiani che continua a essere più amato e più letto, che è Cesare Pavese. Allora, abbiamo sentito che ci sono molti appuntamenti, ricordiamo però quello lì di questa sera che è Europa Cantat. Allora, Europa Cantat all'Anfiteatro Romano alle ore 21 con tre ospiti, un ospite che viene dal Brasile, ospiti numerosi perché sono cori, quindi sono in tutto saranno oltre 90 persone pronte a cantare. Allora, Via Brasil dal Brasile, Canzonetta, un coro di voci bianche che viene dall'Italia, e il coro baiolese, che è un coro del Piemonte che recupera la tradizione orale delle terre piemontesi. Che è quello che poi ci incuriosisce di più, perché 350 persone del nord-ovest del Piemonte, quindi deve essere proprio il clou della serata. Grazie infinite ricordiamo al direttore artistico di Canto d'Estate, Enzo Sicco. Grazie, arrivederci. Si è sposato, lo sappiamo, e per un rocker come lui è stata una scelta un po' anomala, i fans si sono un po' divisi, però è sempre lui, è sempre Vasco. E per ricordare, per anche un po' osannare questo divo rock italiano, a Rapallo questa sera c'è proprio una serata dedicata a lui, Rock and Roll Show Vasco Rossi Fans Event, con Clara Moroni, che è una delle sue vocalist. Buon pomeriggio, Clara. Sì, ciao ragazzi, no, sono l'unica vocalist. L'unica? L'unica. Ah, allora è un bel po' da fare quando canti con Vasco. Senti Clara, che cosa proponi questa sera? Stasera siamo io e Maurizio Soglieri, accompagnati dalle custodie cautelari a Rapallo in piazza, quindi sarà bellissimo, e faremo, Soglieri farà il suo repertorio di brani che ha composto lui appunto per Vasco Rossi, che sono anche tra i più famosi, brani miei originali, e poi faremo anche dei pezzi di classic rock, classic rock come AC/DC, Led Zeppelin, e anche un po' quello che ci viene, abbiamo un vasto repertorio, vediamo un po'. Per fare la cantante e la vocalist di Vasco, ovviamente tu sei una cantante rock proprio, questo è il tuo genere? Sì, questo è il mio genere. Che ovviamente non è facile da fare per una donna, perché in Italia rock e femmine, di un certo tipo di rock, non è mai stato, diciamo, incentivato, anzi, e quindi è una grande sfida. Perché? Perché non è abbastanza femminile? Perché una donna non può essere una rocker? Perché c'è un pregiudizio? Sì, c'è un pregiudizio. Adesso meno, devo dire molto molto meno. Poi c'è anche da dire il fatto che immodestamente dico, grazie anche appunto al fatto che Vasco avesse sul palco l'unica donna che cantasse con lui e facesse anche delle parti solistiche rock, ha diciamo fatto passare questo concetto, cioè il fatto che una donna può essere sul palco con un grande rocker come lui, quindi essere una donna rock. Mentre invece c'è, cioè, da sole è sempre stato difficile affermare questa cosa. Quindi non sarebbe mai nata una Patti Smith in Italia, tanto per intenderci? Secondo me no. Beh, quello che ci dici è abbastanza grave, ci dispiace molto per questo. Allora, noi però, siccome tu ci hai sfidato, hai detto che sei una cantante, che sei rock, eccetera, noi ti chiediamo un brano, un piccolo accenno, che ne so, Alba Chiara, Dillo alla Luna, scegli tu. Facciamo una bella Alba Chiara, che è sempre un classico, ed è sempre molto un evergreen. Spiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera, ti risvegli col sole. Sei chiara come l'aria, sei fresca come l'aria, diventi rossi se qualcuno ti guarda e sei fantastica mentre sei assorta nei tuoi problemi, nei tuoi pensieri, ti vesti svogliatamente, non metti mai niente che possa attirare l'attenzione, un particolare solo per farti guardare. Vedi, hai pure a un certo punto esitato, come fa un po' Vasco, no? Che ogni tanto esita quando canta e crea questo suspense. Allora, non è per un semplice motivo che non ci si ricorda mai il testo. Sì, è una di quelle canzoni un po' difficili, eh? Allora, sì, perché... è vero. Perché non ha proprio un ritornello, no? È tutto un continuo. Allora, Clara, esatto. Moroni, concerto a Rapallo il 2 agosto. Noi, tutti i fan di Vasco Rossi, devono assolutamente andare in Liguria. Assolutamente venire in Liguria. Assolutamente. Rock and roll show Vasco Rossi. Esatto. Grazie, Clara. Grazie e, a voi, ragazzi. Siete troppo simpatiche. Mannaggia che non possiamo venire, perché sennò cantavamo insieme a te, ma stoniamo. Ciao. Non importa. Ciao. Ieri sarebbe molto contento. Tu sola dentro la stanza e tutto il mondo fuori. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia, Antonella Migliaccio in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a summertime@radio24.it. Una buona giornata da Elisabetta Fiorito.